Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, sono le 8 e 16 minuti e tu stai con l'orso. Io lo so, io tu stai con l'orso. Io sto con l'orso, io sto con il gatto. Sì. L'hai visto questo gatto? Di Talkeetna, il paese dell'Alaska, che aveva il gatto Stubbs come sindaco. A me sembra sindaco? Sì, sì. Ma è eletto al primo turno? No, no, è eletto al primo turno, per tanti anni confermato. È morto nella notte, il povero sindaco, 20 anni di vita, 20 anni e 3 mesi. E pensa alla sublime forma di ironia di una comunità politica che decide, noi non abbiamo bisogno di un partito, un gatto ci va benissimo, io la trovo una forma di ironia sublime. I miei 5, ho saputo la notizia stamattina, pensa quando presto, doveva decidere se aumentare le tasse, si strappavano no. dalle zampette il Corriere della Sera dicendo tu chi fai, primo ministro, io faccio il premio, io voglio fare Mattarella, ha detto sì, il vecchio Lolo. Effettivamente non abbiamo più proseguito a capire qual è la situazione politica tra i gatti di Oscar Giannino. Poi Ragù è sospettato di essere un grande elettore di 5 Stelle, quindi sta sempre un po' da parte. Sì. Ragù viene un po' emarginato per questa sì, cosa. Perché gli altri sono un po' più tradizionalisti, però, lui se ne frega. Gli danno del gattista. No, il problema è che lui risponde uno vale uno, gli altri dicono ma noi siamo quattro, temeniamo. Questo più o meno funziona così, un po' come i vecchi partiti. Esatto, va bene. Allora, oggi è un santo di quelli fondamentali, perché oggi è San Giacomo Maggiore. San Giacomo Maggiore, perché c'era anche un altro apostolo Giacomo, ma lui è il primo degli apostoli, è il fratello di San Giovanni Battista, è colui che è stato testimone di tutti i più grandi miracoli e dell'intera predicazione, e quindi da questo punto di vista è un fondamento tra i fondamenti, per così dire, tanto che pochi magari abbinano, perché c'è stata una specie di leggenda su la trasposizione poi del suo corpo, perché è stato anche il primo martire della cristianità, cioè il primo che viene messo a morte sotto Erode Agrippa nel 42, e di qui poi la leggenda del volo del suo corpo anche verso la Spagna, tanto è che come luogo fondamentale della campagna contro i Mori della Reconquista spagnola, ecco il mito fondativo del grande santuario di Santiago da Compostela. Santiago non è nient'altro che San Giacomo, ovviamente in spagnolo, Santiago da Compostela, che diventa in tutto il Medioevo e lo è a tutt'oggi uno dei punti fondamentali dei pellegrinaggi di tutti i cristiani. Quindi oggi questo grande santo e che dire, io però di Giacomo, sai che non ne ho mai conosciuto uno, conosco gente con i nomi più strambi, ma di Giacomo ammetto, tu hai conosciuto qualche Giacomo? Giacomo, se sei un compagno di scuola di Mattia, Giacomo vedi, per esempio. Ecco, invece io no, quindi mi dispiace molto, ma comunque auguri a tutti i Giacomi. 25 luglio, inutile che io dica nella storia italiana che il 25 luglio è il Gran Consiglio del fascismo, quindi la caduta di Mussolini, e vedremo poi invece la campagna acquisti del Milan, che più o meno è altrettanto importante. Maggiore importanza, oggi forse. Oh, tra l'altro. Ma senti, ma tu sei colpito dalle scomuniche per le camicie e le magliette che usi come Fedez, essendo un po' un personaggio, o forse solo me? Scomuniche in che senso? No, è l'avviso l'avviso dell'autorità. Sì, ma no, non sono colpito. Cioè, come no? Nel senso, in America sai che bisogna anche su Twitter dire. No, se ma colpito si fa nel senso che sei interessato, perché sei un influencer anche tu, no? No, io non sono colpito, nel senso, non è che se Chiara Ferragni si mette una maglietta, io vado a comprare una maglietta. No, ma se te la metti tu, le fan si te la strappano di dosso. Sì, sì, questo volevo dire. Chiaro, noto influencer. Ogni giorno mi metto una camicia di modo che quando mi vedono su Facebook Facebook in video, tutti corrono a comprare la stessa camicia. Si sa questo. Volevo dirti solo che oggi c'è un è anche un giorno in cui lo devo dire, perché poi uno dice il trasformismo, la politica è un po' sempre stata così, eh? Non crediamo che l'Italia so... Oggi è il mitico giorno in cui un certo giorno il re, che è il grande organizzatore dello Stato nazionale francese, si converte e dice una frase che dice tutto del trasformismo. Naturalmente lui non era cattolico, ma si converte a Saint-Denis e dice la famosa frase: Parigi val bene una messa. Ecco, più o meno la politica è questa roba qua. Comunque vedi, Giacomo ci saluta da Londra. Ci sta ascoltando da Londra. Felicissimo, un auguri a Sabina Guzzanti, intrattabile, che oggi fa gli anni, ma intrattabilissima, e a Gigi Marzullo, che noi saremo morti da 30 anni, ma tutte le notti sarà in diretta sulla Rai, come ovvio. Tra l'altro, oggi, cari ascoltatori, in prima pagina della Stampa, Oscar è rimasto colpito da questo, Paolo Mastrolilli racconta la storia del microchip che dal 1 agosto verrà impiantato tra il pollice e l'indice dei dipendenti della compagnia del Wisconsin Three Square Market. E tu dici, che serve questo microchip? Con questo microchip timbreranno, pagheranno il caffè, insomma... Sì, diventa l'accesso di sicurezza della ID proprio per tutte le funzioni in cui questa cosa... Ma tu pensa cosa si potrebbe fare? Ma bisogna immediatamente vedere chi è che lo produce. Noi abbiamo bisogno esattamente di 3.2 milioni di queste unità. Perché 3.2 milioni? Ma certo, perché pensa se partisse la grande iniziativa. Microchippiamo il dipendente pubblico! Ma scusa! guarda che da noi già Alberto Forchielli ha detto microchippiamoli, lui ha aggiunto come i cani. Ma non come maniera... i cani, microchippiamoli. Microchippiamoli. E l'orario? Hai timbrato? Non hai timbrato? 104! Andiamo a vedere dove vai! Eccetera, eccetera. Microchippiamo il dipendente pubblico. Attenzione. Vabbè, 800 24 00 24, non lo so, microcipiamo il dipendente pubblico. Noi invece vogliamo salutare il responsabile giustizia del Partito Democratico, l'onorevole Davide Ermini, che è con noi. Buongiorno onorevole Ermini. Salve, buongiorno. Stia tranquillo, non l'abbiamo chiamata per un parere sulla microcippatura dei dipendenti pubblici. Non so, ero responsabile giustizia nella vecchia segreteria. Mi perdoni. Mi occupo sempre di giustizia. E lei è, diciamo, il primo firmatario di questo provvedimento, che prevede, per quel che riguarda quelle azioni odiose che sono le truffe agli anziani. Le truffe sono sempre odiose, ma le truffe agli anziani hanno quel surplus di insopportabilità, perché si va a colpire le persone deboli, fragili, eccetera. E quindi che cosa si prevede? Delle aggravanti di pena, l'arresto obbligatorio invece che facoltativo in flagranza di reato? Cosa prevede il suo provvedimento? Sì, in realtà prevede che ci sia una stretta sulle truffe alle persone vulnerabili. Noi abbiamo il reato di truffa in Italia, che è decisamente sottostimato. In Italia abbiamo delle pene esagerate per un sacco di reati, e abbiamo per dei reati importanti, come per esempio la truffa e l'appropriazione indebita, delle pene che sono abbastanza ridicole. Cioè, praticamente truffando che tu truffi 100 euro o puoi truffare anche per 10 milioni, difficilmente finisci in galera. Questa è la verità. E le truffe nelle persone anziane sono molto frequenti, sono molto odiose, e soprattutto poi provocano dei danni anche psicologici alle persone che sono più vulnerabili. Quindi abbiamo fatto questa norma, che è una norma che tocca esclusivamente non tanto le truffe, abbiamo inserito la parola frode, che è un reato di pericolo, quindi c'è una tutela più vasta per coloro che per le persone che sono vulnerabili e che vengono tratte in inganno, per cui gli vengono fatti firmare delle cose, dei contratti, oppure o gli vengono fatti fare per telefono, oppure si entra in casa con la classica scusa di essere... E lì cosa prevedete? Perché in questo momento l'arresto in flagranza è facoltativo al momento. Allora noi prevediamo innanzitutto la possibilità delle misure cautelari, perché alzando le pene per questo tipo di reato si potrà procedere all'applicazione di misure cautelari. L'arresto obbligatorio in flagranza, che è molto difficile da verificarsi, però se noi colleghiamo la sanzione alla prevenzione, noi per esempio abbiamo visto che tanti carabinieri, poliziotti addirittura vanno alla fine della messa come a spiegare no, come alle persone no, come abbiamo, si devono muovere. Parlato, E poi abbiamo il fatto che la sospensione condizionale tu potrai averla soltanto se risarcisci interamente il danno. Sì. È un tentativo di mettere uno stop a questa cosa che è veramente odiosa. Soprattutto quando vanno questi delinquenti, vanno vicino alle uffici postali. Si manca gli uffici postali, vicino alle banche. Però sai, ieri, onorevole Erminio, parlavamo con Oscar, e Oscar su queste tipizzazioni continue ha delle perplessità. Io ho un po' un problema generale, scrivo da anni di questo. Ogni volta che nasce una nuova fattispecie di reato, sono come quelli molto più autorevoli di me, tipo che ne so, l'ex procuratore di Venezia Caro Nordio, che storciamo un po' il naso, perché dicono: ma c'è bisogno di tutte queste nuove fattispecie, quando per esempio a danno di soggetti deboli, in parole povere, per il giudice è già un aggravante considerabile oggi. Però ecco, questa è una cosa generale. Io capisco che la politica deve dare all'opinione pubblica l'idea tangibile che considera in una scala di gravità i reati di impatto sociale, e quindi passa anche attraverso questo. Cioè, non è che non mi metta nei panni della rappresentazione che il politico è tenuto a dare, del rilievo che attribuisce ad alcune idee, e quindi ha degli strumenti che non sono poi infiniti per concretizzarlo. Però non c'è un po' questo problema generale di moltiplicarle troppo le fattispecie? Guardi, dottore, noi abbiamo cercato di inserire all'inizio delle aggravanti, cioè prendendo la fattispecie di truffa e inserendoci delle aggravanti. Sia magistrati che professori sono venuti a spiegarci in commissione che ci sono adesso delle linee di scuola di sentenza che dicono di non aumentare eccessivamente il peso delle aggravanti, ma di creare sempre più delle piccole fattispecie autonome. Questa è una linea di pensiero, naturalmente, a cui noi poi abbiamo aderito. Però secondo noi è molto più efficace, perché poi le aggravanti con il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche si elidono, per cui poi alla fine l'effettività della sanzione diventa estremamente vasta. In una fattispecie, come le dicevo, quella della truffa, che lei pensi, la truffa va da 6 mesi a 3 anni, la truffa ordinaria, e quindi di fatto diventa sostanzialmente impunita. Senta, Ermini, c'è la questione. Io ho sempre pensato da anni, avendo riservato tempo fa uno studio all'evoluzione della giurisprudenza sulla truffa, che nel nostro ordinamento, come lei correttamente rileva, il peso non troppo elevato della sanzione alla truffa è perché la truffa è uno degli atti fondamentali della società italiana. Ma purtroppo basta vedere. No, ma la giurisprudenza è sterminata sulla materia della truffa. Cioè, si capisce che dall'immediato dopoguerra, ma davvero, la truffa diventò in pochi anni una roba di fronte ai quali i magistrati dicevano tra di loro, anche le sentenze di Cassazione: ragazzi, se noi ci mettiamo a inseguire ogni singolo aspetto della truffa non ne usciamo più. Ma non lo dico per celia, ecco, per mettere in caricatura gli italiani. Davvero è un aspetto importante questo fatto della truffa. Quindi capisco bene che si debba, sono passati decenni, però sottolineare l'importanza è una roba che non va bene invece. Tra l'altro, onorevole Ermini, c'è questa questione di come definire un anziano, perché credo che questo, come quando si deve stabilire. Io, per esempio, sei da un soggetto da tutelare, questo è ovvio. Quando si stabiliscono dei parametri, bisogna mettere delle età. Berlusconi. E questa storia dei, credo, 65 anni che si è stata messa, è un qualcosa. Fa storcere il naso a qualcuno che dice: qualcuno dice, ma io a 65 anni, ma faccio 3 ore di nuoto, 2 ore di arrampicate. Becco uno che mi vuole fare una truffa, lo sistemo con due colpi di karate. Questa è una legge ad persona. Berlusconi ne ha 81. L'abbiamo tolta. E come si stabilisce allora se un anziano? Le dico, guardi, su quei 65 anni era già partita un po' di ironia. Perché noi diciamo mandiamo in pensione le persone a 67, a 68 e poi a 65. Esatto. Però era stato utilizzato all'inizio il 65 perché è già previsto nell'aggravante della rapina, e per cui si pensava di dare una linea omogenea. Poi obiettivamente abbiamo detto, ci sono delle persone che magari sono vulnerabili a 64 e delle persone che non sono vulnerabili a 80. Poi se noi mettiamo il limite di 65, chi è che vende più una macchina usata a uno che ha 66 anni? Ah, che domani potrebbe... No, è vero, infatti, che potrebbe dire, ma tu fatto. Quindi abbiamo messo il criterio della vulnerabilità in maniera che il giudice possa esatto. valutare, perché non è un'incapacità che si valuta con la fiducia, certo. è una vulnerabilità, cioè il fatto che una persona sola, più debole, può essere un po' più ingenua, è un apprezzamento che il giudice può fare liberamente. Sì, credo che sia molto meglio che mettere una data che poi non obiettivamente poteva essere portata. No, ma infatti avete recepito questo tipo di perplessità, diciamo così, e quindi avete cambiato. Va bene, insomma, noi, onorevole Ermini, ma io voglio sapere una cosa tra sé e Faceto. Ma onorevole Ermini, ma si applica anche a tutela degli anziani a cui i partiti promettono i prepensionamenti? No, no, poveri anziani, quelli ci credono poi che voi fermate la Fornero, voi no, in generale la politica, non sto dicendo lei o il suo partito, e bisogna tutelarli. Io vorrei che questa legge tutelasse anche loro, ecco, l'elettore anziano. Vabbè, questo ci proveremo. Si può fare un'estensione, un'interpretazione della legge. Vabbè, andremo a vedere. Intanto la ringraziamo, onorevole Davide Ermini. Grazie a voi. Vabbè, ci mettiamo un po' di ironia, non se la prenda, ma così si diventa anche più popolari nella comunicazione. Allora, vedremo, in realtà la questione ovviamente lo sappiamo, è una piaga sociale, ma è vero, come ci ha detto Ermini, che i carabinieri è vero. Fine delle omelie, li abbiamo invitate anche il vescovo. È verissimo. E secondo me, vista la quantità di persone che girano per le case, no, questa è una delle cose più frequenti, tentando di raggirare le persone anziane sole, è un'ottima cosa che le forze dell'ordine spieghino, ripetendo che non ci sono delegati che abbiano la delega per girare e raccogliere soldi di nessuna azienda pubblica e così via, e sono cose molto utili. Ma pensa, se ci fosse questa legge, Berlusconi avrebbe chiesto che si applicasse a sé, perché, ma è ovvio, perché gli rubava i soldi, elettori, soldi. La Lega, e capisci, l'avrebbe applicata. E lui ha 81 anni e avrebbe detto: ma guarda un po', questo Salvini mi raggira e io voglio essere tutelato. Ma guardate che questa cosa dei 49 milioni di sequestro, di confisco di beni, di confisco, che devono restituire la Lega a Camera e Senato. Esatto. Questo se non cambia in appello, ovviamente, la sentenza che ha condannato Bossi e Belsito ieri, che vale anche in caso di prescrizione. Anche in caso di prescrizione, se viene confermata, cioè la condanna è poi prescritta. Se invece in appello viene ovviamente ribaltato il giudizio, no. Ma ci sono 49 milioni, una spada di Damocle non male per la Lega in vista delle elezioni, chi è spada Paracallo al fondo schiena, ma secondo me Salvini sarà in grado, Oscar, di trasformare questo quasi anche in un'arma. Ah, tu dici perseguitato? Come dire, vedete, ci vogliono. Beh, però perseguitato, delle due l'una: se, come immagino, mantiene la linea, era quella è la storia di una Lega che non ci riguarda più, abbiamo girato pagina apposta, non può fare perseguitato. Vabbè, insomma, ci sono tanti ascoltatori, guarda. Ma i microchip li mettiamo o non li mettiamo? Mamma mia, Oscar, guarda che gli ascoltatori stanno covando proprio arrabbiati su questo. Dai, vai col microchip. Marco da Milano, buongiorno Marco. Buongiorno. No, sì, si stanno arrabbiando, no, non si stanno arrabbiando sulla microchippatura, avete detto voi. Sì. No, una considerazione, insomma, ma prima di tutto mi sembra un po' offensivo dei dipendenti pubblici, sia il dottor Giannino che lei, il signor Milan, insomma, ogni volta che si parla di dipendente pubblico, allora io sono dipendente di un'azienda privata, allora, si parla di dipendente pubblico da quando è arrivato il signor dottor Brunetta a essere ministro. Sì. Il dipendente pubblico è diventato un appestato che ruba, non è così, insomma il dottor Giannino prima mi sembra che dicesse ma non sono d'attore, ma è possibile che non capite un po' di ironia, ma non ha detto così peraltro. Vabbè, comunque cosa vuol dire, cioè, chiediamo scusa ma in ginocchio sui ceci io non chiedo scusa in ginocchio a nessuno che non abbia l'ironia di capire che in un paese dove a ogni giorno si vede che c'è qualcosa che non funziona e se non si può ironizzare, la microcippatura dei dipendenti non ce la inventiamo, perché basta guardare la stampa e ci sono sono davvero aziende agli Stati Uniti che microchippano indipendenti. Se vi devo dare un paese serio, in Italia ovviamente sarebbe impossibile. Se volete aggiungo anche che sono un individualista per il quale scenderei in campo per dire che naturalmente non bisogna farlo e ci mancherebbe altro. Se non sapete distinguere però un po' di ironia da una cosa seria, io Marco ragazzi, direi proprio una bella spruzzata di umorismo e ironia al mattino. Però Marco dica prego. Brunetta, da quando è iniziata Brunetta, sì, per cui il dipendente pubblico è un appestato, cos'è che ha prodotto? Ha prodotto che il dipendente pubblico, ma se prima rendeva 10... Brunetta non ha mai detto un appestato, adesso... No, non l'ha mai detto, insomma il senso è quello lì, no, bisogna pubblicare... Bisogna pubblicare, ma quello che è pubblico va pubblicato e ci mancherebbe altro. Certo, è interessantissimo sapere queste cose, ma dico, sono considerati sempre come... Ma insomma io vedo che le pubbliche amministrazioni tante volte stanno in piedi grazie a questi qui. Ma a certo, questi, chi dice di no? Però è altrettanto vero. Ma cosa produce questo? Mi faccia finire per favore. Ma guardi, ma l'ha già detto quello che deve dire. Senta, i dati sono però al contribuente interesserà capire perché, visto che ci sono i dati che parlano chiari, i tassi di assenteismo sono così più rilevanti nel pubblico che nel privato, tante volte l'abbiamo spiegato, colpa dei dirigenti in alto, però queste cose qua non sono una campagna generalizzata come dice lei, ci sono dei fenomeni che in una vita pubblica vanno affrontati, non c'entrano niente con mancare di rispetto a tutti i dipendenti pubblici, tutto qua. Comunque Paolo da Udine, vedi adesso. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Ecco, io volevo ricollegarmi a quello che ha appena detto il signore, perché sì, anch'io, io sono un docente e sono molto arrabbiato che si continui con questi luoghi comuni, soprattutto da parte di voi giornalisti, sempre con i dipendenti pubblici. Premettendo che sono contrarissimo al CIP, a prescindere dal pubblico e dal privato, per un discorso di libertà personali, però basta con questa storia dei dipendenti pubblici. Caro Paolo, però allora adesso poi i dati precisi li sa Oscar, gli dice tra un attimo, ma i luoghi comuni, è vero che nel privato c'è un assenteismo circa del 2,3% e nel pubblico del 10%? Cioè benissimo, è un luogo, io questi è un dati luogo non li conosco. Non è un luogo comune, è un numero, però, no? È un numero. È il luogo comune quando si generalizza, perché potremmo dire la stessa cosa sui livelli di informazione a livello europeo fatta dai giornalisti e da tutti i mass media che fanno informazione, perché vede l'Italia tra gli ultimi ma signor mio, i giornalisti lei non li paga con le tasse, lo sa questo, paga quelli della RAI, quindi il suo esempio non sta in piedi, caro il mio docente, non sta in piedi, non glielo dico per la quarta volta, pessimo esempio, non sta in piedi, guardi, non sta in piedi, non sta in piedi, si sta arrampicando come gatto silvestro, piglia artiglietti tri sul vetro. Paolo mi scusi, il numero, ma per favore, i finanziamenti pubblici, va bene, io non sono un dipendente pubblico, caro il mio docente, no, Paolo, però scusi, caro il mio docente Paolo, il dato che le ho dato che le ho fornito è un numero, cioè incontestabile, dati ma per Istat. L'amor di Dio, io non dico questo, ci sono già gli strumenti normativi che prevedono e farebbero sì che i dirigenti facciano i controlli, e non vengono il decreto Brunetta. Allora non è un problema microchip o non microchip, il microchip è una battuta si generalizza e si demonizzano sempre i dipendenti pubblici. Amen, d'accordo. Benissimo, è indifferente ai numeri perché lei è convinto c'è una campagna generalizzata contro il pubblico, d'accordo, l'ha detto. No, insomma, demonizzare, dire che c'è un dato di assenteismo nel pubblico che è quattro volte quello del privato, da fastidio, è un punto di partenza incontestabile. Da fastidio ripetere che ci sono i medici conniventi, che la legge 104 è uno strumento per aggirare le norme, che nel pubblico è cinque volte naturalmente quello che nel privato, da fastidio e siccome da fastidio è un fondamento. Tra l'altro Paolo da Udine, se è docente non so di che livello, ma nella scuola soprattutto la legge 104 c'è un abuso perché e non lo diciamo noi, lo dicono i dati, lo dice il ministero che dice sempre ci sono migliaia di abusi, perché è impossibile che chi faccia il docente o l'insegnante, i giornalisti sono i dipendenti pubblici. Vabbè, comunque, Giuseppe da Roma, no, dice una cosa diversa, dice molti giornali prendono i finanziamenti guarda, pubblici, quindi li paghiamo. Per quello che mi riguarda, lui non mi paga, questo è poco mai sicuro. Vabbè, ma non te, se crede non il contrario, diciamo, siccome ci sono giornali. Ce l'ha con me, io gli rispondo che lui non mi paga, e se è un docente mi spiace per i suoi studenti, perché gli racconterà delle cose non, proprio, non troppo fondate. C'è Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io allora innanzitutto faccio un intervento sul discorso delle truffe agli anziani, che si inquadra però in un contesto più ampio che stiamo facendo, su cui si tocca anche quell'aspetto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. È verissimo che le pubbliche amministrazioni hanno un 35-40%, io sono esperto di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, di persone che fanno poco e niente. E certo, per un motivo semplicissimo, normalmente non si parla di tutti, ma molte, per un motivo semplicissimo, che non c'è nessun riscontro del numerico, dei risultati delle pubbliche amministrazioni sui singoli territori. Quindi è certo, è sbagliatissimo mettere microchip, il problema è come fare per far funzionare le pubbliche amministrazioni sui singoli territori. C'è attualmente una nuova norma sottovalutata, che è l'accesso civico generalizzato, giusto, la Madia, FOIA. Noi scriveremo a Giannino e diremo cosa stiamo facendo. Abbiamo fatto fatelo, un sito, ma io sono pubblicamente impegnato a favore del FOIA, quindi lo fa, sì, ma guardi, il FOIA non è, attenzione, il FOIA c'è una cosa diversa, voi siete impegnati come giornalisti. No, noi guardi, sono impegnato per mutare la legge estendendola, comunque va benissimo, visto perfetto, che mi dà lezioni anche lei. Il FOIA che è sottovalutato sotto questo profilo, sì, per il funzionamento delle pubbliche, sì, amministrazioni, consente di misurare le performance, esatto, intese come migliorano la vita, benissimo, dei cittadini sul territorio e le possibilità per fare impresa sui singoli territori con i dati meramente numerici. Sì. La tendenza è che i sindacati interni non tendono a non fare questo aspetto perché perdono tessere. Il problema è che i cittadini non sanno come fare. La contabilità economica della pubblica amministrazione fatta nel 1997 con un decreto eccetera eccetera non ha funzionato. Allora dobbiamo lavorare sui territori. Vado, sì, sul concreto, sì, io sono un avvocato, sono avvocato amministrativista, ho fatto tanti anni nella pubblica amministrazione e mi intendo di queste cose. Abbiamo fatto questa iniziativa che si chiama Progetto Italia Trasparente con dei gruppi di lavoro, uno dei quali lo stiamo facendo con l'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà e col sindacato pensionati italiani. Va bene, benissimo, Giuseppe, la ringraziamo. Aspetta, per questo no, mi scusi. Spot fatto, punto. Giuseppe, avvocato. Sennò, siamo già, esatto, in ritardo. In genere gli interventi sono di 30 secondi, ha parlato 2 minuti, purtroppo in radio è così. Tra l'altro, il microchip da cui siamo partiti in America, ma lo mettono 50 che la dipendenti privati, di un'azienda privata. Serve. Comunque, signori, ecco, il migliore è questo, un ascoltatore che la prende con l'ironia, sono un dipendente pubblico in Trentino e troverò il modo per hackerarlo e mi comparirà Giannino, ma certo, che mi dirà lavora. Però lavora. Noi a quel punto le scateneremo contro l'orso. Questo è il modo di affrontarla anche con un po' di sorriso, un po' di ironia, ma no. Però vedi che manca, ci sono cascate in tanti, è bastato dire microchip pubblico, per cui la difesa automatica del pubblico si è scatenata. No, ma ormai l'ironia è la grave malattia. Quella che manca in Italia Cassano. È la mancanza di ironia. La quella che manca a Cassano. Mancanza di capacità di sorridere. Sì, esatto. Tra poco, dopo parliamo di Cassano, tra un attimo. Beh, io le caramelle le ho tagliate ai dipendenti pubblici, come dire, sono ancora un po' incazzato. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8 e 46 minuti, allora, caro Oscar, non so, adesso volevi parlarci di Cassano, perché è l'ultima cassanata di Cassano. No, io non voglio parlare. Cosa, no, sono colpito dai nostri ascoltatori che invocano il silenzio, la cacciata, il galletto, faccio il galletto. Ma ragazzi, vabbè. Ma di Cassano, cioè, ma no, sì, non di Cassano, di Giannino. Vedo, sto leggendo. Perché niente, questa cosa, la levata di scuda del mondo pubblico è stata tale. Dai, c'è Simone da Napoli, buongiorno Simone. Ciao, buongiorno a tutti. Veloce testimonianza su un ambito peggio e microcittatura. Perché io lavoro da circa 7 anni nell'informatica qui a Napoli, è abbastanza famosa, e noi da circa un anno a questa parte peggiamo attraverso un'applicazione sullo smartphone che usa il GPS per capire dove effettivamente hai peggiato. Quindi se sei a casa e fatto tardi e stai per peggiare, sanno che stai sbagliando. Quindi è una cosa abbastanza, non proprio a livello, diciamo, di microcippatura sotto il dito, però no, dai, anche perché la microcippatura sotto il dito avrebbe inevitabili profili di inaccettabilità per la tutela dei diritti. Esattamente, ma siccome che molte persone peggiavano da casa, che ecco, prima si poteva fare, sì, ora invece e possiamo dirlo che è una buona cosa questa, o secondo lei le diamo i diritti dei nostri ascoltatori che credono impegnato il sottoscritto in una campagna? Cioè, mi sembra una cosa utile, no? Sono più che d'accordo, perché visto che io viaggio per andare a lavorare ci metto un'ora, è giusto che la persona che invece abita a 4 metri dal lavoro, perfetto, pensa di fare in tempo, invece deve andare a lavorare come vado a lavorare, sì, cioè almeno mezz'ora prima. Va bene, prima, non lo so, questa è la testimonianza di Simone da Napoli. Rimaniamo a Napoli perché c'è Angelo con noi. Buongiorno Angelo. Salve Giannino, buongiorno. Io sarei uno di quei medici conviventi con i pazienti. Due semplici cose. Mi entra nello studio un paziente e mi dice che lui ha la diarrea e ha dolore di pancia. Io lo visito. Ah, dolore, ho dolore. Ah, dottore, la diarrea, certamente non è che gli faccio abbassare la mutandina per vedere se c'ha o non c'ha la diarrea. E quindi già qua, un giorno, due giorni, tre giorni, viene la prima volta, la seconda volta, la terza volta, poiché qua, come si dice a Napoli, che nessuno è fesso, la quarta volta io lo invito a cambiare il medico. Perdo i soldi, perché noi siamo come le prostitute, i medici di medicina generale siamo pagati a numero, quindi perdo il paziente, perdo tutta la famiglia del paziente. Dice, ma lei deve fare il studio. Ma quello mi ha detto che c'è la diarrea, mi ha detto che c'è la cefalea. Io come faccio a non certificarlo? Ma diciamo che noi conosciamo i nostri pazienti. Io il certificato non te lo faccio. Bene, lui esce dal mio studio, si butta a terra, si fa due scoriazioni, sì, va in pronto soccorso, dice che ha avuto una crisi estensiva, e a quel punto là io sono fregato due volte, perché vado a fare anche una causa. Allora, nessuna categoria è pura, e su questo non c'è dubbio, perché guardiamo sempre all'Europa e non facciamo come si fa in Europa? Il lavoratore fa l'autocertificazione per i primi tre giorni. È quello che stanno tentando di fare. Hanno proposto per legge. A me è chiaro che serve a sgravarvi, questo lo capisco. Io dirò una cosa impopolare. Cioè, no, io dirò una cosa impopolare, caro Oscar. Poi dopo tu dici entriamo nello stesso discorso. Sì, sai perché in Germania questo funziona, questo potrebbe funzionare? Perché sono tedeschi. Vabbè, ma allora celebriamo l'inno. Sai perché in Finlandia, ripeto, potrebbe funzionare? L'inno sul fatto che perché abbiamo finlandesi genetiche, e chi invece pensa che possa cambiare, ma non è un rompicoglioni come non Giannino è, che dovrebbe genetiche stare zitto. È un paese doppiamente malato. C'è chi solleva il problema dicendo affrontiamolo, che deve stare zitto e muto perché sennò il moralismo di chi ascolta si scatena. E secondo, ci scriviamo le regole per consentire a tutti, guarda, di fare i furbi. Oscar, di recente, quando invitai una volta Giuliano Cazzola, so che anche tu lo stimi, parlavamo del possibile reddito di cittadinanza in Friuli. Ha detto, in Friuli l'hanno fatto, e lui mi ha risposto: ma in Friuli sono friulani. Quindi non capito. È che no, vabbè, ma voglio dire, ma non ho capito. Non mi convince poco. Ti convince poco. Ma no, questo fatto genetico. Ti convincerà poco, però. Non devo convincerti. No, lo so, però ripeto. E allora che dobbiamo fare? Gli italiani hanno questa tara genetica. Non genetica. Ma lo è per forza, da come lo dici sembra. Culturale, te l'ho detto. Culturale, antropologica, storica. Comunque, visto che parliamo di cultura, storia, di italiani, signori, vogliamo salutare il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Andrea Mazziotti. Buongiorno, onorevole Mazziotti, eccoci con noi. Buongiorno. Abbiamo visto che c'è una novità che riguarda l'inno di Mameli, che in realtà l'inno di Mameli, insomma, il canto degli italiani di Goffredo Mameli. Questa è la vera novità, che è una proposta di legge, insomma, approvata per riconoscere il canto degli italiani di Mameli quale inno nazionale della Repubblica. Perché nessuno lo sa, ma in realtà è una delibera a tempo, quella che fu fatta non fu mai adottata in maniera permanente ufficiale. Cioè, possiamo dire adesso che quindi l'inno di Mameli, o meglio il canto degli agli italiani è l'inno della nazione? Lo potremo dire quando la proposta sarà approvata definitivamente. Abbiamo finito il voto dei pochissimi, per la verità, emendamenti in commissione, qualcuno anche abbastanza curioso, e adesso aspettiamo il voto, diciamo, della Camera e poi quello del Senato. Grazie, mi faccia fare la giunta da sostenitore del sì, grazie al nostro amato bicameralismo, vedremo quanto ci vorrà. Ma perché qualche cosa curiosa? C'era qualcuno che si è sbizzarrito a proporre? Ma perché c'è stato un collega con il quale ho avuto anche un dibattito abbastanza acceso, che è un feroce nemico dell'inno di Mameli. Diciamo, è una vecchia tradizione del mondo cattolico, quello di avercela col mondo, diciamo, cattolico in senso papista, di avercela con l'inno di Mameli, e quindi ha cercato di sostenere che invece che diciamo consolidare l'inno di Mameli era meglio fare un concorso con il quale tutti mandavano delle proposte e una commissione sceglieva l'inno. Ma come? Voglio dire, io lo do per scontato, tutti gli italiani l'hanno per scontato, anche se per legge per concorso, non è certificato concorso che vince o sole mio e funicolì funicolà. Esatto. E ha detto per esempio che se fosse stato scelto sole mio dal Parlamento lui l'avrebbe votato con entusiasmo. C'è una versione storica che parte dal fatto che si dice che lui sia morto durante la Repubblica Romana, e quindi è morto combattendo contro i difensori. È contestato anche questo. È contestato questo, così come è stato contestato il fatto che l'autore sia lui e non un giombertiano papista. No, conosco tutta la vicenda. Da ex mazziniano in anni giovanili, così figuri se non conosco la vicenda. Detto questo, musicalmente non è un granché questo inno, se lo paragoniamo, voglio dire, cioè quello tedesco, Haydn e così. Detto questo, poi sono io che ce l'ho con i tedeschi, tu vuoi l'inno anche tedesco? Ci sto dicendo semplicemente musicalmente. Adesso, no, il giovane eroe che è autore del canto degli italiani, non si discute perché voglio dire, viveva nella tempra di questo risorgimento dove si sacrificavano le vite, erano minoranze assolute, però lo facevano. Però certo Haydn è di un altro livello. Detto tutto questo, però insomma abbiamo... Ma detto tutto questo, chi può sceglierlo? Cioè, chi è che può decidere, ne pigliamo un altro? Ma no, questo ma è il punto. Non può d'accordo essere il Parlamento né una commissione stile X Factor, perché poi diventa un meccanismo un po' strano, cioè dopo facciamo un referendum, non mi sembra il caso. No, questo sì. Però insomma la questione è che gli italiani lo danno per scontato da sempre, insomma crescono, magari non hanno questo grande attaccamento all'inno, no, in altri paesi però si canta, almeno in altri paesi. Però lo danno sul per mondiale di calcio, almeno lì lo ascoltano, non dovunque come in paesi che hanno un radicamento vero della propria idea, come gli Stati Uniti, ma insomma. Però è incredibile come effettivamente anche ieri sulla stampa si racconta e passa la legge, l'inno e questo, ma è polemica. Ma questo perché in Italia vuoi evitarla la polemica? No, infatti, ma perché c'è polemica anche su questo, onorevole Mazziotti? Ma io non... Ma questo, ripeto, è una vecchia questione, nel senso che prima era la Lega, ma comunque sono stati spesso alcuni esponenti, diciamo, del mondo più vicino al mondo cattolico, al mondo cattolico sovranista, posizione qualche venatura anche di insorgenza borbonica, lo dica a me che io ho una serie di antenati morti nelle carceri borboniche, quindi sono stato anche tutto sul vivo, insomma, avevo un coinvolgimento diretto. Vabbè, ma lei, onorevole, quando sente l'inno, quando sente queste note, cosa prova? Ma io sono fortemente nazionalista, per cui non sono affatto indifferente. Quindi, io per esempio, io lo ammetto, io non sono nazionalista, io credo nell'Europa del mondo. Detto questo ha un significato inequivocabile, anche se io l'ho orrendamente parodiato, perché chi conosce la mia trasmissione del sabato... Appunto. Io credo che si possa parodiare di tutto, compreso un inno nazionale. Sì, ma non mi faccia dire che sono nazionalista nel senso di antieuropeo, perché come sta lo so, ma antieuropeo, esatto. non lo considero, no, ci non può... la considero due. Lei ama il suo paese, esatto, ama il suo paese senza crederlo in contrasto con l'Europa. Sono d'accordo con lei. Va bene, esatto. Insomma, allora, onorevole Mazziotti, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, noi la ringraziamo per essere stato con noi su queste note dell'inno di Mameli. A me piace perché è antisavoiardo. Il canto degli per esempio, italiani. No? Vi apprezzo lasciamo questo al giornale radio e dopo parliamo di vacanze. No. Vacanze, no, è il tema preferito da Oscar Giannino, le vacanze. Grazie no a voi. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 9 e 6 minuti, caro Oscar, in onda fino alle 9.30 nell'ultima settimana del nostro programma. Ah, così è? No, vabbè, poi andiamo in vacanza. Ah, ha vinto chi, quelli che dicono che bisogna star muti? No, hanno vinto loro? Sono le vacanze che vincono, anche se tu non lo accetti, non lo accetti. Le vacanze. C'è Stefano da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto è un onore essere con voi e tanto che vi ascolto. Grazie Stefano, prego. Allora, dicevo, per l'assenteismo dei dipendenti pubblici. Sì. Cioè, ma così lo dico, poi voi direte la vostra e vi ascolto volentieri. Ma dare a tutti una bella partita IVA. Dare, cioè, io da quando ho aperto la partita IVA e sono 7 anni, non ho fatto un giorno a casa, ecco, di Mattia. Ecco, bravo. Sì, solo che loro, quindi... loro invece dicono che sono loro, capisci, gli eroi. Mentre io dico sempre, ma visto che li invidiate tanto gli autori, ma perché non venite anche voi a provare come... Esatto, provare, solo provare, esatto. E per quanto riguarda le categorie, io adesso uso gli spazzini, ecco, per dirne una che non lo so, però io da imprenditore li assumo tutti io, lo Stato mi dà gli stessi soldi che dà a loro, gli stessi, e io li faccio andare avanti. Non è una cosa... Cioè, no, ma guardi, lei me lo scriveva, io ho mio cugino che mi ascolta e ci ascolta, e mentre lei parlava da 20 minuti mi ha scritto questo messaggio. Una bella partita IVA a tutti, certo, però ha aggiunto si perderebbero forse 3.200.000 euro di voti, ma non lo so, poi è una soluzione, insomma, è una soluzione, come dire, partita IVA è un po' il contrasto dell'idea di dipendente pubblico, no? No, è il contrasto, l'idea che il lavoratore debba essere per tutta la vita, capito, bene, garantito. Ma allora togliamo il concetto di dipendente pubblico. No, come quelli che dicono, io ho fatto il concorso. Certo, ti hanno abilitato una volta a vita per fare tutto quello che nel resto della vita cambierai e credi di poterlo dire con orgoglio. Ecco, però, naturalmente, io so già che adesso scateno il casino. Mm. Infatti, paradossalmente, apposta lo dico in questo modo. Non contento col microchip, ora te la prendi anche con il concorso. Certo, e perché primo è aggirato. In Italia lo sappiamo benissimo, è stato aggirato sistematicamente l'obbligo di concorso. Vedi all'Agenzia delle Entrate, e che continua a non ottemperare a una sentenza della Corte Costituzionale, dite che sono io il provocatore, ma fatemi il piacere. Dopodiché non è affatto detto che vincere un concorso quando si è giovani e dopo la certificazione del valore legale del titolo di studio sia l'abilitazione a vita per fare cose. I lavori cambiano nella vita, questo vale anche per i magistrati, tanto per dirne una. Comunque tutti a partita IVA, ce lo chiede anche un altro ascoltatore via WhatsApp. C'è Giovanni da Como? Sì, buongiorno. Pronto? Sì, eccoci Giovanni, buongiorno. Ah, buongiorno. Sì, no, dunque, comincio, buongiorno a tutti, grazie dell'intervento. Grazie, dunque, mi fa ridere l'imprenditore di prima perché io sono un dipendente pubblico docente. Sì. Sono 21 anni che insegno e non ho fatto un giorno di malattia. Un giorno di malattia, bravo, 21 anni. Quindi bravo, mi fa ridere l'imprenditore di prima. Poi avete detto un'altra cosa voi prima, riguardo i trasferimenti 104, ma dovete dare le informazioni giuste, perché al nord... Sono lo 0,5%. Ah, no, sono 0,5%. È vero. Perfetto. E invece al sud, in Sicilia, guarda caso, il 35%. Quasi, Giovanni, abbiamo varie volte anche invitato il docente Lorenzo Navarra, che fa un'opera meritoria a Sciacca, da Sciacca, e fa proprio questo, cioè denuncia gli abusi, parliamoci chiaro, della legge 104, soprattutto in Sicilia, perché la legge 104 dà la possibilità Sicilia, di Calabria, insegnare nella provincia di origine, per cui molti vengono, prendono la cattedra e poi chiedono subito legge 104, che è sacrosanta, però a volte forse è abusata. Giovanni, comunque, ha concluso? Devo dire, ma succede solo al sud questo? Dovete proprio dirlo, affermarlo. Solo al sud, no. Solo al sud, no. Solo al sud. Ci sono i dati del ministero. No, ci sono. Succede molto di più, molto di più al sud. No, guardi, mi ascolti. Lo 0,5% può capitare di avere un genitore con 104 fratello, quindi succede perché deve succedere, perché è per legge questo, ma al sud succede perché c'è l'abuso. Stiamo dicendo la stessa cosa, semplicemente mettiamoci d'accordo sui numeri. Non succede solo al sud, come dice lei, ma prevalentemente al sud, come numeri, ma non è solo il sud, però certo di più al sud. Su questo i dati del ministero Oscar parlano chiaro, non è che si può negare questa e per l'ennesima volta quando facciamo la trasmissione ci troviamo di fronte al fatto che chi doveva attestarlo, come il medico che è intervenuto prima, ma che posso dire, lui mi dice che è così, cioè capisci, l'Italia allora... quello che in termini tecnici si chiama il mean test, cioè la verifica pubblica per constatare se davvero sei in una condizione che è quella prevista da una legge per avere diritto a una prestazione, a una garanzia, a una deroga di leggi, in Italia è impossibile perché la stessa pubblica amministrazione non è capace di condurre questi criteri di verifica della conformità di una condizione. Oscar, siamo sempre lì presi singolarmente, come il nostro docente che il medico non ha dice fatto... per primo, ma si autocertifichi. No, aboliamo il medico di base, caro signor medico, però aboliamo il tuo posto e vai a casa, chiaro? Ecco. Comunque il docente che dice non ho fatto un giorno di ferie, tanti applausi. Il medico che dice io mi arriva uno e dice c'ho la diarrea o il mal di testa, non posso verificare, va bene. Però nel caso dei 1500... No. Ma nel senso, capisco anche che non sia facile, ecco, mettiamola così. Ma il docente che ha avuto 1500 giorni, ne abbiamo parlato settimana scorsa, di assenza, aveva un medico che per 1500 giorni probabilmente il sospetto di una qualche truffa possibile ai danni dello Stato... poteva anche allora averlo, ce l'hai con il medico, no, allora dillo, sei prevenuto, ma come ti permetti, ma stai zitto, sei un giornalista pagato dallo Stato, ma insomma, ma state muti, ma diamoci una mano, diciamo che tutto va bene, ecco, questa è la cosa che alcuni vorrebbero. Senti Oscar, sai cosa ti dico, secondo me abbiamo bisogno tutti di un po' di vacanze. Ma no, abbiamo bisogno tutti di un po' di vacanze, questa è la verità. In realtà voi non lo sapete magari, cari ospiti, perché da giorni va avanti una disfida tra me e Oscar soprattutto la porta avanti al bar con tutta la redazione. Sì, con la nostra Chiara Compagnoni, con Lorenzo Nespoli, con Peter Bescapè, a dire basta voi italiani, pensate solo alle vacanze, e adesso che è estate pensate già alle vacanze d'inverno. Io sono popolarissimo perché salgo su un tavolo e dico volete andare in vacanza, ma non capite che vi ci manderanno tutti tra poco e non tornerete in questa azienda, così più o meno funziona così. Va bene, per esempio, non so se si può dire, ma Chiara Compagnoni andrà per lì di lontanissimi, transoceanici, cioè capito? Eppure ci sono, la verità, tanti italiani che purtroppo non possono andare in vacanza e qui si tratta di questioni economiche e tra l'altro vogliamo salutare il presidente dell'SVG Maurizio Pessato, che è curatore di un'indagine che è uscita sulla stampa negli ultimi giorni sulle vacanze degli italiani. Pessato, buongiorno. Buongiorno presidente. Buongiorno, grazie. Buongiorno. E salutiamo anche un filosofo e scrittore che firma di Repubblica, che spesso chiamo anche al mattino alle 6:30, stavolta siamo stati molto meno, insomma, molto meno impietosi con lui. Franco Bolelli, buongiorno. Buongiorno, cioè, grazie. Grazie Franco. Allora Maurizio Pessato, intanto quanti ci dia i numeri sostanziali di quanti italiani purtroppo per questioni economiche credo soprattutto non possono andare in vacanza. Sì, i numeri naturalmente sono approssimati, nel senso che sono indagini in confronti delle famiglie, però siamo attorno a un quarto che dichiarano di non poter andare in vacanza. 25% degli italiani. Sì, ecco. È in linea con gli altri anni? Sembrerebbe leggermente un punto superiore, quindi direi che siamo lì, però ci segnala una cosa, ci segnala che se da una parte c'è comunque un buon andamento, le persone una parte possono andare, c'è una parte che invece ha delle difficoltà, c'è un effetto di polarizzazione che stiamo un po' vedendo nella società, ci sono alcuni elementi di ripresa, però ci sono anche degli aggravamenti di una serie di situazioni. Per esempio si accorciano un po' le vacanze, cioè chi ci va magari non ci va 2 settimane, ma anche un po' meno deve... Sì. Si accorciano e c'è anche un tentativo di spendere un po' di meno, ecco, quindi abbiamo quindi questo doppio segnale, no? Una parte che indubbiamente si muove, va, esce, e una parte però che cerca di contenere o non andando del tutto, oppure se va comunque riducendo i giorni o riducendo magari la spesa, ad esempio nel luogo dove ci si ferma, l'utilizzo di una casa di amici, un bed and breakfast, cioè qualcosa che contenga un po' le spese. E geograficamente chi rinuncia di più, al centro, al nord o al sud? È il sud, perché economicamente è comunque in maggiori difficoltà, questo si vede, ma non soltanto quest'anno. Questi sono i numeri essenziali, no, di questa indagine. Caro Oscar, ma ci vuoi spiegare qual è insitamente la tua avversione alle ferie, all'idea delle ferie? Cioè, da dove? Se ne hai una. Io ho una, così, da quando ero piccolo e non capivo come mai in Italia ci fosse questa pausa che all'epoca era lunghissima, no? Era una cosa messicana. le atmosfere di Aureliano Buendía in Cent'anni di solitudine, cioè c'era questa cosa che da fine maggio si riprendeva a ottobre. Ma la scuola. Fine maggio si riprendeva a ottobre e le città che si svuotavano, un paese che andava con le 600 tutti nelle spiaggette a illudersi di che cosa? A sospendere qualunque tipo di attività, questo era quello che, come avviene nei paesi premoderni, perché poi questa è l'idea della siesta, è una cosa premoderna, è così, e noi ci tiriamo dietro questa idea premoderna, innestata nel fatto che poi siamo all'avanguardia di molte cose della postmodernità addirittura. Però non siamo riusciti a elaborare un concetto di quanta vacanza fare, perché se paragoni altri paesi, io non faccio l'esterofilo, mi sono sempre chiesto com'è che negli Stati Uniti le vacanze medie annuali sono tra i 7 e i 12 giorni, e questo provocherebbe un'insurrezione di massa in Italia, perché qui ci si è abituati improvvisamente nella mia generazione, quella che registra il grande salto dei consumi e dei redditi, no, da un paese premoderno dove comunque ci si fermava tutto per mesi. Allora ci sono le vacanze estive, le vacanze invernali, la gente che si è abituata anche a costi bassi, per fortuna, a offerte turistiche dall'altra parte del mondo, e bisogna andarci perché bisogna andare fuori stagione d'inverno, bisogna andare al mare in questo oceano o sul Mar Rosso, eccetera, altrimenti la gente sta male se non fa tutte queste vacanze. Io non l'ho mai capito, non lo capisco. Vediamo Franco Boleri, che è filosofo e che ieri anche su Repubblica raccontava che essendo stato un precursore, non avendo un lavoro, come dire, cioè, da De Masi dipendente, mi sparerebbe, chiaro che il professor De Masi, mi sparerebbe. Però io non lo capisco, il fautore del lavorare tutti, lavorare meno, lavorare tutti. Franco Bolelli, insomma, questo approccio alla vacanza, l'idea del riposo, della pausa chilometrica messicana, l'ha definita Oscar. Cosa ne pensi? Io sono completamente d'accordo con Oscar al 2000%. È una condizione che non ho mai tollerato, ero nella condizione di non tollerarla, perché appunto, come scrivevo ieri, non ho mai avuto un lavoro fisso, non ho mai avuto una scrivania, non ho mai avuto uno stipendio, non ho mai ho fatto il freelance tutta la vita, di conseguenza il lavoro che faccio, quello di scrivere e tutte le cose che gli ruotano intorno, non posso mai andare in vacanza da quel lavoro lì, perché è il mio, me lo porto attaccato addosso, non ha momenti di ferie, non ha momenti in cui lo metto sul comodino, lo lascio fuori dalla porta, per cui per me le vacanze sono sempre state una condizione innaturale, anche perché dall'altra parte invece, semmai, se voglio prendermi uno o due giorni durante i normali giorni lavorativi, me li prendo tranquillamente, perché devo dipendere soltanto dai miei tempi. Però questa capisco che è una condizione molto personale, anche se ultimamente qualcuno potrebbe dire privilegiata, anche privilegiata perché scelta. Privilegiata perché scelta, poi quando vai a vedere quanto ti pagano, insomma, il privilegio non è una parola che userei, ecco. Però certamente è scelta nella maniera più assoluta. Io però noto un cambiamento in questo momento, nel senso che ancora pochi anni fa la frase che aveva il potere di farmi impizzarire insieme ad alcune altre era "ne parliamo a settembre", solo che quella frase cominciavano a dirla a maggio, esatto. Luglio e agosto fossero mesi di vuoto. Non male, effettivamente si sente, ma si sente ancora, Franco, guarda che si sente ne parliamo a settembre, magari adesso a fine luglio, ne riparliamo a settembre. Io forse ho l'osservatorio milanese che è abbastanza cambiato in questo senso, nel senso che è diverso da prima. Io mi ricordo che prima c'era una vera mistica della vacanza, per cui, come dicevo Oscar, prima era il punto cruciale dell'anno, quello di cui parlavi per tutto l'anno, era una sorta di risarcimento dal lavoro alienante, cioè veniva percepito in questa maniera. Oggi per volontà o per necessità, perché le condizioni economiche sono quello che sono, perché comunque la maggior parte delle aziende non chiudono più per tutto il tempo che chiudevano prima, tre quarti lavorano in una dimensione internazionale, ma dove esatto, appunto continuano a lavorare, sì, per cui io vedo che c'è una, c'è un modo diverso di approcciare le vacanze. No, ma è chiaro, cioè non è più diciamo quel ricordo di Oscar Giannino, non è più Oscar così, ormai si lavora, c'è molta gente che lavora. No, però io do una cosa che adesso luglio, molti a casa agosto diranno, al solito luogo comune, però nei questionari dei piccoli imprenditori che girano nella sezione territoriale, a cui si chiede quali sono le condizioni, le difficoltà che riscontrate nel assumere e valutare per le vostre offerte di lavoro i giovani, una delle più ricorrenti continua a essere che una delle prime domande fatte dai giovani è: ma quante vacanze mi date? Ma non è che mi rompete le scatole? Io ho bisogno di tot cose di estate, io ho bisogno di tot fine settimana. Allora, questo punto resta quindi prioritario anche nelle giovani generazioni, anzi più di prima. Però Franco Bolelli, non credo di svelare un mistero perché lo dice spesso, se non sbaglio ha un figlio che sta negli Stati Uniti, no? Franco a Los Angeles, credo. Abita a Los Angeles ed è ripartito ieri da qui per tornare là. È davvero così il modello americano? Non so, ne parlate di questa cosa, non lo so. È davvero il modello americano così nel diverso? Nel tuo caso è un po' diverso, perché facendo professore universitario comunque ha delle pause un pochino più lunghe di quelle dei lavori tradizionali, anche se le colma facendo un mucchio di altre cose legate a quello che lui ama fare. Però è effettivamente molto diverso, nel senso che innanzitutto i giorni di vacanza sono meno, tutto è molto più flessibile, e capisco che flessibilità è una parola che ad alcuni suoni molto sospetta, però è una condizione anche naturale, è una condizione nelle quali le tue possibilità di scelta aumentano evidentemente, e soprattutto secondo me mentalmente è diverso, nel senso che non per forza di cose che ci debba essere l'etica calvinista del lavoro ad ogni costo al primo posto, ci mancherebbe altro. Lontani da ogni visione penitenziale, però nello stesso tempo le vacanze non diventano, come dire, il graal a cui devi agognare per tutto l'anno, perché è una condizione mentale molto pericolosa. Esatto. Perché magari poi ci sono tanti lavori in cui alle 5 si smette, a differenza di quanto non faccio in Italia, che bisogna sbattersi fino alla notte fonda e così via. Però è quest'idea della sospensione per un mese e mezzo e così via che è completamente però diversa. Questa cosa effettivamente un po' la crisi economica, se abbiamo capito da Maurizio Pessato, un po' le abitudini cambiate, il lavoro è cambiata, cioè non ci sono più le città. Non vi dimenticate che nella statistica degli impieghi e i consumi delle famiglie, cioè dei prestiti per le famiglie, continua ad avere il finanziamento della vacanza, cioè ma gente che non ha redditi ma si indebita per andare in vacanza. Per me è ecco, mistero, Pessato, eh. Questo aspetto voi nell'indagine l'avete trattato, magari c'è anche l'aspetto dell'approccio culturale alle vacanze, questo non è tanta materia di un'indagine statistica, però forse un'idea su questo ce l'avete anche, no? Di come gli italiani si approcciano culturalmente all'idea della pausa estiva. Sì, sicuramente quello che è stato descritto è quello che caratterizzava l'Italia nei decenni passati, cioè questo lungo periodo, poi la scuola appunto emblematica in questo e certe generazioni sono segnate quindi da questo. Adesso è molto cambiato perché molti devono trovare, non possono perdere occasioni di lavoro e quindi anche l'estate, quello che è stato detto, l'internazionalizzazione, no? Per due anni a noi è successo che i coreani ci chiamavano in agosto e toccava fare dei lavori, certo, ad esempio, e questo è successo, però ancora il numero di ferie contrattuali e questo elemento culturale della vacanza resiste e per questo poi chi può, è stato in un'altra indagine notato che c'è appunto la richiesta di prestiti, se poi uno ha un lavoro a tempo indeterminato è in grado anche di ripagarlo il prestito, e quindi c'è l'elemento per uscire, si tratta di uscire dalla routine, no? Questo è fondamentale. Però insomma gli italiani hanno sempre questo un po' il culto, ecco, delle vacanze, poi magari ci devono rinunciare, ma il modello americano a cui faceva riferimento Oscar è un modello che, come dire, da questo punto di vista lo vediamo molto molto lontano ma da io, noi. Ma io non voglio adottarlo come modello perché farei a pugni con l'antropologia italiana, come la definisci tu. Il fatto è che mi sono sempre interrogato su come potessero convivere visioni così diverse nel mondo, ma anche in Europa, cioè L'Italia e la Francia hanno questa idea delle vacanze lunghissime. Pensa al modello asiatico. Esattamente, però il modello asiatico, stiamo parlando proprio di un'altra deriva continentale culturale. Il modello americano viene da un modello europeo, no? Noi abbiamo questa idea sacrale. Perché ce l'abbiamo? Attenzione, c'è anche una storia religiosa dietro. Non sottovalutare la controriforma e le festività sacre religiose hanno plasmato nei secoli l'idea di quante vacanze, naturalmente in ginocchio di fronte a Dio in quel caso, certo. Poi in ginocchio di fronte a Dio è sparito, ma le vacanze non basta il settimo giorno di riposo dopo sei di lavoro. Questo lo pensano, però attenzione, questa è una tendenza un po' luterano-calvinista, cara mia. Ho capito, secoli fa questa battuta non sarebbe stata molto gradita dai papisti. Bolelli, qui adesso io non dico nulla perché non vorrei finire con la decollato però in pubblico bar. Guarda, in pubblica ci sono di studi di storici della religione su come l'idea di vacanza dipende dall'influenza che i calendari liturgici hanno per secoli esercitato. In ogni caso, noi ci dobbiamo fermare qui. Ringraziato Maurizio Pessato, presidente di SVG, e Franco Bolelli. Franco, guarda, noi tra tre giorni poi andiamo, effettivamente ci fermiamo. Io odio dirlo a questo punto, ma ci si risente a settembre. Robe da matti. Perché le radio sospendono il palinsesto ad agosto? Non è sospeso, cambiano. Ma perché? Magari migliora. Questo d'accordo. Allora, magari d'accordo. Migliora. No, ecco, vedi, noi 365 giorni in anno, 366 bisestili, siamo in onda. Noi Radio 24. Sì. Però la vecchia idea era agosto si cambia il palinsesto perché è estate. Ma cosa vuol dire? In fin dei conti, poi alla fine Margherita la porti in fede o no? Mi faccio un'altra domanda. Signor Presidente, continuiamo al bar questa discussione. Grazie a Lorenzo Nespoli, Chiara Compagnoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Dai, ci troviamo domani.